Un buon pomeriggio a Toi Giordani, una delle voci del progetto Mezzo Palco che aprirà la serata ai Walkie Talkie questo venerdì 2 dicembre al Mercato Sonato. Ciao Toi, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ah, buon pomeriggio, grazie a voi, ciao Adele. Toi, ti chiedo per prima cosa di raccontarci di Mezzo Palco, come è nato questo progetto? Il progetto nasce da una costola del collettivo Zopalco, un collettivo di poesia orale. Alcuni anni fa abbiamo cominciato a lavorare io e Riccardo, che siamo i due membri appunto del collettivo Zopalco. Su questo progetto volevamo raccontare le storie di quelli che secondo noi sono i padri e le madri della storia della voce, dell'oralità nell'Occidente, attraverso tutta la storia. E abbiamo trovato questo modo particolare di farlo con un concerto, un progetto che si compone di sole voci, quindi siamo io e lui tra canto, narrazione, spoken word, hip hop e la nostra, diciamo, drum machine umana barra bassista barra batterista, che è Ninjo Beats, che è un ragazzo che fa beatbox e padroneggia l'antica arte dello human beatbox. E quindi andiamo in giro sostanzialmente a fare concerti solo vocali, con un accesso, diciamo, alla musica elettronica, all'hip hop, eccetera, però fatto solo con le voci, sostanzialmente. Lo scorso 17 maggio è uscito Impre, il vostro primo disco. Come siete arrivati alla realizzazione di questa vostra prima pubblicazione, anche sulla base un po' degli obiettivi che ci stavi raccontando adesso? Ma Impre è stato un lavoro molto bello, intenso, lungo, anche dovuto, diciamo, allo stop dovuto alla pandemia. Il progetto ha una dinamica molto performativa, è nato per il palco, diciamo, come dice anche il nome, mezzo palco ha un po' quel significato lì, per mezzo del palco, e nasce proprio per essere, diciamo, performato. È il centro della ricerca sia del collettivo Zopalco che del progetto in sé, quello del portare la poesia nella voce, nel corpo, nella relazione, portarla così, per così dire, fuori dalla carta. Il disco è frutto appunto della necessità di fissare questo progetto, cercando di mantenere la ricerca il più possibile aderente a quelli che sono appunto le caratteristiche del progetto. Cioè, noi, come dicevo prima, raccontiamo le storie di padri e madri dell'oralità, quindi persone che attraverso la voce hanno cambiato o hanno segnato, secondo noi, la storia dell'Occidente. E ognuno di questi personaggi appartiene a una storia, a un'epoca, a un luogo, eccetera. Andiamo dal V secolo avanti Cristo con Eschilo fino a una proiezione nel futuro con Patrizia Vicinelli, una poetessa bolognese, passando per Gisco Theron, eccetera. Quindi nel disco quello che abbiamo fatto è stato vestire maggiormente quello che invece dal vivo è un concerto molto secco, fatto di sole voci, senza sequenze, senza arrangiamenti ulteriori rispetto alle tre voci. E nel disco abbiamo vestito tutto questo di descrizioni sonore, sempre solo fatte con la voce, estratte da quelli che sono le epoche e i generi a cui appartengono le persone di cui raccontiamo le storie. Quindi è stato un lavoro molto interessante di ricerca, fatto con Luca Iacoboni, produttore del Polo Studio, ed è una cosa completamente diversa dal live, proprio sono due oggetti completamente diversi. Rispetto anche a questa differenza, ti vorrei fare l'ultima domanda: come si strutturano poi le vostre serate live? Come si unisce tutto questo percorso anche di ricerca con poi una performance basata unicamente con la voce? Ma allora, dal punto di vista performativo, quindi la dimensione del live dipende sempre moltissimo dal luogo in cui lo facciamo. Questi anni abbiamo fatto tanti concerti, siamo stati molto fortunati e pronti, diciamo, a prendere al volo le opportunità, che sono state diversissime. Quindi abbiamo fatto dalla Sagra di Paese al Teatro Stabile, dal Live Club alla piazza di città. E dal punto di vista proprio performativo, uno dei nostri punti fermi, anche uno dei più divertenti, è che a seconda di dove siamo abbiamo la capacità e la fortuna, essendo solo tre voci, di poter plasmare il concerto a seconda appunto del tipo di pubblico, del tipo di relazione che si instaura, palco molto alto o senza palco, eccetera. Quindi tutta la storia, diciamo, che è un viaggio sostanzialmente attraverso il tempo, attraverso le epoche e attraverso questi personaggi, si dipana tra intermezzi di spoken word che contestualizzano un po' il personaggio di cui andiamo di volta in volta a raccontare la storia, e i brani stessi che raccontano appunto la sua storia. Poi, a seconda appunto del luogo, un concerto più colloquiale in cui le persone decidono dove andare, questa versione del concerto la chiamiamo agenzia viaggi, che quando c'è una situazione più colloquiale ci piace, diciamo, aprire la struttura del live e chiedere alle persone dove andare. E invece poi c'è il concerto, diciamo, filato, che è più da teatro, da scena, ecco, appunto, da spettacolo finito. Toi, io ti ringrazio, grazie mille per questa chiacchierata, invito tutte e tutti ad esserci questo venerdì 2 dicembre, perché aprirete ai Walkie Talkie al Mercato Sonato, e ancora buona fortuna e grazie per tutto. Grazie a te, sono molto contento di questa data perché i Walkie Talkie sono uno dei miei gruppi preferiti da sempre, e quindi invito tutti a venire a seguirci sulla pagina del collettivo, che è anche una piccola etichetta che ha prodotto il nostro disco e altri, ZPL. E Adele, grazie mille e buon pomeriggio.